as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci di nuovo qui, oggi pomeriggio, puntata metalmeccanica, puntata a dir poco siderurgica, visto che parleremo dell'Ilva di Taranto. Se andate a guardare il nostro podcast, la nostra pagina podcast Il Pane e le Rose, che troverete sicuramente nella pagina Facebook Il Pane e le Rose, dove ci sono tutti i podcast, il link dove accedere, vedete che abbiamo parlato poche volte dell'Ilva. Ne parliamo adesso perché l'Ilva ne ha passati tutti i colori e in questo momento c'è una situazione drammatica. Ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, parlando degli scioperi che c'erano stati sia a Genova che a Taranto. A Genova, bisogna dire la verità, riusciti molto meglio che Taranto, ma la situazione è davvero tesa. Questi fondi finanziari che stanno prendendo piede, forse, come ci spiegherà il compagno che abbiamo intervistato, il segretario della FIOM di Taranto, Francesco Brigati, che non dimentichiamo che un operaio dell'Ilva distaccato, un ex delegato della FIOM distaccato dal sindacato, è diventato segretario e segue l'Ilva. Abbiamo intervistato lui. Andiamo subito con un pezzo bellissimo. Oggi la puntata sarà dedicata a Taranto, ai musicisti di Taranto, rapper e musicisti di Taranto, alle canzoni dedicate all'Ilva, e poi ci sentiremo brevemente per le conclusioni. A dopo. Una nuvola tossica, una terra rossa e la mia gente che soffoca. Qua giù la vita quanto costa, voglio una risposta. Se tutto quello che ci uccide lo chiami risorsa. Denunce, marce, sbirri antisommossa, la pelle riarsa di chi combatte una guerra già persa. Stretti in una morsa, forza, diamo fine a questa farsa. Forse ci meritiamo una fine diversa. E non so dove Dio sia, se è ricoperto da diossina, che a cercarlo in questo cielo ci ho perso qualche diottria. Una volta da quel lato si vedeva una collina, ora c'è il cielo aperto sulle scorie radioattive. Un fumo scuro, così scuro che non brilla più la luce, sono rimasto al buio. Non vedo ad un palmo dal naso, non c'è più nessuno. Non si scorge l'orizzonte, non c'è alcun futuro. E anche in mezzo alle persone mi sento un po' escluso, perché ormai la legge legittima il sopruso. Il potere perpetra l'abuso, io mi sento stufo. Che se combatti un calcio in culo e poi vieni rinchiuso. I bambini hanno imparato che è normale, perché li hanno insegnato a non amare. Vincere e sognare, soffrire e arrancare, perdere e combattere, vivere o mangiare. Allora, siamo qui nel Comitato Centrale della FIOM a Roma. Oggi abbiamo avuto questo seminario in cui Matteo Gaddi ci ha spiegato la situazione industriale dell'Italia, vari settori, partendo dalla siderurgia. Insomma, ci ha presentato questo quadro devastante in cui l'Italia ha perso l'acciaio completamente. Siamo in una situazione davvero drammatica. E io quindi ne volevo parlare con Brigati, che è il segretario della FIOM di Taranto, che chiaramente segue anche l'ILVA, ex operaio ILVA. Non operaio ancora. Sì, è vero, sei solo in distacco, sì, però. Sì. Però chiaramente adesso fai il segretario della FIOM di Taranto. E di te, con te volevamo parlare della situazione dell'acciaio in Italia, ma anche soprattutto di quello che sta accadendo oggi all'ILVA di Taranto, quello che è accaduto. Se ci puoi fare anche un, insomma, spiegarci un po' ai nostri ascoltatori. Insomma, la trasmissione metalmeccanica, tu non ci conosci perché non ci puoi ascoltare da Taranto, però raccontiamo spesso le nostre vertenze, però non abbiamo parlato spesso dell'ILVA, ma alcune volte abbiamo parlato della crisi industriale, chiaramente. Allora, raccontaci un po' quello che sta accadendo a Taranto, quello che è accaduto, quello che accadrà, perché è sempre una situazione in divenire, no? Ogni giorno sentiamo a telegiornale novità su novità, insomma, raccontaci un po'. Sì, ma io parto da un dato che secondo me è emblematico rispetto a quello che è successo in questi ormai 14 anni. Mi riferisco al sequestro preventivo degli impianti del 26 luglio del 2012, quando per problemi ambientali avevano sequestrato lo stabilimento, l'area a caldo dello stabilimento di Taranto, che aveva procurato morti, diciamo, per inquinamento nei confronti dei lavoratori e ovviamente dei cittadini. Sono successe tante cose, io penso che qui ci sia una responsabilità da parte di tutti i governi che si sono succeduti in questi anni, perché se penso al primo decreto che fu fatto sull'ex Ilva, appunto quello del 2012, aveva garantito la continuità produttiva, stesso decreto che tra l'altro aveva portato a un ricorso alla Corte Costituzionale che aveva sostanzialmente, a distanza di qualche mese, dato un principio fondamentale, che sono appunto quelli dei principi costituzionali che facevano riferimento al diritto al lavoro, al diritto alla salute e all'ambiente. L'obiettivo di quella sentenza della Corte Costituzionale era appunto che in 3 anni avremmo dovuto risolvere questo dilemma che appunto c'è tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute. Sono due diritti costituzionali che vanno necessariamente insieme, cose che abbiamo sempre sostenuto come FIOM, e aveva appunto la necessità di trasformare, quindi di anticipare quello che si sta discutendo oggi rispetto alla transizione ecologica, quello che era il processo produttivo a carbone, che inevitabilmente andava cambiato per l'impatto che dava nei confronti della città, nei confronti di un'industria a ridosso della città, in particolar modo del quartiere Tamburi, che dista a pochi decine di metri dallo stabilimento. Io penso che sia stato un fallimento per come siamo arrivati alla condizione in cui ci troviamo oggi, per due ragioni. Il primo, noi eravamo, Taranto era nel 2007, ha prodotto circa 10 milioni di tonnellate di acciaio, quindi parliamo di un fatturato che si aggirava intorno ai 12 miliardi di euro, quasi quanto una manovra finanziaria, e che aveva appunto degli utili nel 2007 di 878 milioni. Quindi parliamo di un'azienda che era sana e competitiva a livello europeo e internazionale, garantiva, cosa è uno degli elementi che è emerso anche nello studio di Matteo Gaddi rispetto alla questione che è legata ovviamente all'utilizzo dell'acciaio e della incapacità rispetto all'installato di poter garantire la trasformazione dell'acciaio. Non siamo autonomi da questo punto di vista, e la perdita dell'ILVA, perché se parliamo dei 10 milioni del 2007 a 1 milione e 8, 2 milioni di tonnellate negli ultimi anni, evidentemente un problema c'è stato. E c'è stato un problema dal punto di vista produttivo, perché poi a un certo punto siamo arrivati a due amministrazioni straordinarie, la prima quella del 20 gennaio del 2015, poi c'è stato il bando di vendita internazionale, dove appunto l'ha acquisito ArcelorMittal, poi a distanza di qualche anno, esattamente nel 2024, abbiamo avviato un'altra procedura di amministrazione straordinaria, adesso c'è un'altra fase legata al bando di vendita internazionale. Bene, questi sono i punti, diciamo, e i nodi da sciogliere, e sono questioni che come FIOM abbiamo sempre affrontato. Non adesso che si parla di decarbonizzazione e di transizione ecologica, ma su questo ci arriverò dopo, che riguarda appunto la fase di vendita del l'ex Ilva, ma quello che abbiamo determinato con le proposte nostre rispetto ad esempio a una valutazione di impatto sanitario e preventiva, cioè come la produzione poteva essere compatibile con la città, e rispetto ad alcuni studi già dalle osservazioni che abbiamo depositato come Fion CGL, siamo stati l'unica organizzazione che punto per punto abbiamo verificato quella che era l'autorizzazione integrata ambientale presentata da ArcelorMittal, e ritenevamo necessario già all'epoca avviare un processo di transizione ecologica attraverso un percorso ibrido, cioè un mix tra il ciclo integrale e i forni elettrici, per poi arrivare ad un completo processo di decarbonizzazione. Questa cosa non è avvenuta, adesso siamo in una fase ancora più complicata, perché da un lato il governo ha deciso di non mettere le risorse per garantire la continuità produttiva, quindi praticamente lo stabilimento e gli impianti produttivi sono al collasso. Ci sono problemi dal punto di vista delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, ci sono problemi rispetto agli investimenti del rifacimento di alcuni impianti, perché la cosa che chiediamo noi è che la transizione la fai garantendo ovviamente un processo di qui ai prossimi 5-6 anni, dando una continuità produttiva che nel breve periodo appunto ti possa garantire l'installazione del primo forno elettrico e così via. C'è stato nel frattempo tutta una serie di discussioni anche con le istituzioni locali e regionali, perché inutilmente il governo aveva pensato di fare un accordo di programma senza avere chi eventualmente aveva intenzione di investire, cioè non c'era un player industriale. E dall'altra parte si discuteva di nave di gasificatrice piuttosto di Urso, quando è venuto a Taranto, parlava di 3 forni elettrici. Poi andava a Genova e ne avrebbe installato un altro, perché il gruppo Exilva ha vari siti in giro per l'Italia, penso a Novi Ligure, Racconigi, Genova, Paderno, insomma, è strutturata non solo sul sito di Taranto, ma anche ad altri stabilimenti che comunque utilizzano il semilavorato per trasformare, ad esempio nel caso di Racconigi, il settore automotive, la latta per Genova e così via. Quindi di fronte a questa situazione, mentre il ministro Urso andava ad installare in giro per l'Italia forni elettrici e impianti di pre-riduzione, che sono fondamentali, perché questi tipi di forni elettrici non sono quelli che vanno a rottame, ma vanno con il preridotto, quindi si discuteva anche di installare 4 impianti di DRI. Rispetto a questa condizione oggi ci troviamo nella fase in cui sostanzialmente da 13 player, dove c'erano player industriali che avevano fatto una manifestazione di interesse, 2 di gruppo che erano appunto Baku Steel e Jindal, di fronte a una situazione di questo tipo si sono ritirati tutti indietro, perché nel frattempo ovviamente non essendoci investimenti c'è stato il problema il 7 di aprile per quanto riguarda l'alto forno numero 1, che ha avuto un incendio abbastanza devastante, sì, tanto da fermarlo, e in più anche qui l'abbiamo ribadito, in assenza di risorse quell'alto forno, secondo il piano di ripartenza che ci avevano presentato i commissari straordinari, si sarebbe dovuto fermare alla fine del 2023, quindi non doveva essere in marcia, non doveva essere in marcia un altro, certo. Quindi è quando parlo di risorse che comunque tu, se porti a sfinimento gli impianti e non fai una serie di manutenzioni, poi ti trovi nella condizione in cui si determinano situazioni di incidenti come quello dell'alto forno numero 1. Sono scappati i player industriali interessati da Baku Steel, anche se sono tutti da verificare rispetto ai piani, eccetera. È lo stesso Jindal che ha fatto investimenti, sta facendo investimenti in Germania, perché magari messi anche nelle condizioni di poterlo fare, mentre qui adesso ci troviamo in mano ad un fondo speculativo, un fondo di investimenti speculativo come Flux Group, che attraverso il Corriere della Sera, altro dato drammatico, noi non abbiamo più interlocuzioni con il governo da quando ci hanno presentato l'11 novembre il cosiddetto piano corto, che noi abbiamo definito un piano di chiusura che prevede, e tant'è che in questi giorni c'è stato il fermo delle cocherie con un ulteriore aumento del personale in cassa integrazione, dove praticamente attraverso non un incontro fatto a Palazzo Chigi, perché è una delle vertenze, anzi l'unica, che a Palazzo Chigi, frutto anche di una serie di iniziative di mobilitazione che abbiamo fatto come lavoratori, visto anche l'importanza e la strategicità per quanto riguarda la siderurgia, ad oggi non abbiamo più incontrato il governo, e abbiamo un piano industriale che viene presentato sostanzialmente attraverso una delle maggiori editorie italiane, penso al Corriere della Sera, in cui Flux Group l'omonimo in questo caso Michael Flax, dove sostanzialmente ha prospettato quella che sarà appunto il piano industriale che pare abbia presentato al governo, dando dei numeri che ovviamente noi non abbiamo dato nessun peso rispetto anche al numero degli occupati, del piano industriale, ma la cosa che emerge è il fatto che comunque a fronte di un investimento di 5 miliardi comunque vogliono una garanzia e quindi un intervento da parte dello Stato del 40%, che ancora una volta sarebbe nella condizione di non dover gestire lo stabilimento ma di mettere ulteriori risorse a disposizione di questo fondo speculativo. Lo diciamo perché c'è stata già un'esperienza con ArcelorMittal quando Invitalia sarebbe dovuto entrare in un accordo fatto a marzo del 2020 al 60%, hanno fatto inizialmente era il 38 e poi con l'ultima tranche di 600 milioni di euro per un totale di 1 miliardo e 80 milioni di euro sarebbe dovuta subentrare in quota di maggioranza e quindi gestire pure lo stabilimento. Poi ci sono questi accordi parasociali che non abbiamo mai visti, questi fatti col governo Conte, che hanno poi portato alla seconda fase che riguarda appunto l'amministrazione straordinaria per quanto riguarda la gestione fallimentare di ArcelorMittal. Quali sono le vostre proposte invece, alternative a questo piano di questo governo, che è un piano che potrebbe essere anche un piano farlocco? Le nostre proposte che hanno trovato in maniera anche strumentale da parte del ministro Urso durante i tavoli, tra l'altro fatte dal nostro segretario nazionale Michele De Palma, è quello di un intervento pubblico. Lui continuava a dire, leggendoci anche articoli della Costituzione, che ciò non è possibile fare una nazionalizzazione. Noi non abbiamo parlato di nazionalizzazione, ma quando parliamo di intervento pubblico, appunto quelle risorse che vengono messe a disposizione, che verrebbero eventualmente messe a disposizione del fondo di investimento Flax Group, siano messi insieme ad altri prezzi industriali come ne abbiamo che hanno un intervento pubblico, cioè che sono controllate pubbliche, come ad esempio Fincantieri piuttosto che la Leonardo, in cui ci siano player industriali, anche acciaieri italiani, che possono garantire questa transizione che ha la necessità di investimenti di miliardi di euro importanti. Certo. Allora noi crediamo che un fondo di investimenti non venga a fare il salvatore della patria, non venga a garantirci questo processo di transizione ecologica, non venga a garantirci la questione ovviamente sociale e occupazionale che riguarda i lavoratori. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che stiamo parlando di lavoratori che sono in cassa integrazione di circa 4.450 per quanto riguarda tutto il gruppo. A Taranto sono circa 3.800 a fronte di 7.900 lavoratori e in più ci sono i lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria che sono in cassa integrazione dalla prima gestione di Ilva in amministrazione straordinaria del primo gennaio del 2019, che ad oggi sono in cassa integrazione, quindi da circa 7 anni, e che sarebbero dovuti entrare entro non oltre il 30 settembre del 2025, a fronte di un aumento produttivo che avevamo garantito attraverso l'accordo del 6 settembre del 2018 fatto in sede ministeriale con ArcelorMittal a fronte appunto di un aumento della produzione. Questa condizione non c'è stata, c'è il tema ovviamente che riguarda il mondo dell'appalto. Stiamo gestendo, ahimè, tutta una serie di proprio legate anche al ciclo corto e frutto anche di due licenziamenti di aziende storiche per quanto riguarda l'indotto. Penso a Semat, c'è un licenziamento collettivo di 200 lavoratori, la Pitrelli altre 55 e tante altre procedure di cassa integrazione che stiamo gestendo. Alcune di queste poi diventeranno, purtroppo ce l'hanno già comunicato, delle cessazioni di attività che ci procurerà, voglio dire, un danno dal punto di vista sociale, che ad oggi non vengono date risposte dal governo, nonostante le iniziative che abbiamo fatto a dicembre, iniziative importanti di sciopero, sì, da Taranto, le abbiamo seguite, da Taranto a Genova, Novi, Racconigi. Proprio in queste ore Paderno sta mettendo in campo altre iniziative di sciopero ad oltranza, perché lì sono fermi da tempo. Non c'è stata nessuna risposta dal governo, quindi il silenzio del governo rispetto a una vertenza così complicata ci preoccupa, perché evidentemente non hanno soluzioni e risposte concrete rispetto alla fase che riguarderà appunto il futuro, che riguarda, lo dico da operaio, da segretario della FIOM, ma anche da cittadino, riguardo ovviamente la prospettiva futura di tutta la città, anche dal punto di vista ambientale, perché da tempo attendiamo, lo ricordavo all'inizio, da 14 anni, questa famosa transizione ecologica. Dunque, a noi serve acciaio pulito per portare avanti l'industria e per non far morire le persone. Questo è quello che rivendichiamo da tempo, lo stiamo anche dettagliando con delle proposte concrete, perché è possibile realizzare, come ci sono altre esperienze per arrivare, perché questo, quando parliamo di processo di transizione ecologica, non è la via definitiva alla risoluzione della problematica ambientale, perché ovviamente si utilizza, certo, il metano e quindi un fossile, ma per arrivare, siamo ancora in una fase sperimentale però, all'idrogeno, ma per farlo abbiamo necessità di ingenti risorse importanti, e tra l'altro il governo va in una direzione completamente opposta, perché ad esempio rispetto all'impianto di DRI, che è necessario, come dicevo prima, per fare il preridotto e garantire il rifornimento per quanto riguarda non da rottame i forni elettrici, quindi con questo pellets di ferro, sono stati definanziati nel piano nazionale di ripresa e resilienza 1,2 miliardi, e poi nei fondi FSC sono stati tolti ulteriori risorse per circa 250 milioni di euro. Quindi erano stati trasferite queste risorse, ma continuano a togliere risorse, quindi non c'è, e questo temiamo, ed è diciamo, preoccupa i lavoratori, non c'è una prospettiva chiara rispetto ad un indirizzo di politiche industriali che il governo invece dovrebbe dare su una vertenza che dura ormai da troppo anni. Ti ringrazio e grazie mille. Grazie a voi. Pioggia. Pioggia che cade. Pioggia che cade e che batte sul viso, pioggia che cade senza preavviso e mi desta dal sogno. Pioggia che cade da un cielo sereno, in queste lacrime a ciel sereno, c'è un destino segnato, la mia terra ho trovato. Terra, su questa terra, per questa terra faremo la guerra, e questa terra non avrà più pace se non è la guerra. Terra di fuochi e di mare, terra di sangue e di sale, rossa di minerale, tra scirocco e maestrale. Allora, abbiamo ascoltato Diodato, questa canzone bellissima, dedicata proprio alla sua terra, a Taranto, colonna sonora del film stupendo, Palazzina Leaf. Chi non l'ha visto la vada a vedere, chi segue il Pane Rose non può non aver visto la Palazzina Leaf, perché è veramente storia dell'Italia operaia, degli ultimi anni, di quello che è più brutto c'è stato nella storia degli metalmeccanici italiani. Ora, io ho pochissimo da aggiungere, dico solo che in questo momento l'Ilva ha bisogno di due cose: ha bisogno che venga gestita e diretta e comandata dai lavoratori. Brigati è un lavoratore dell'Ilva, ha le idee chiare, io condivido molto di quello che lui ha detto. Sicuramente i lavoratori dell'Ilva sanno come gestire l'Ilva e quello che serve all'Ilva, ecco perché bisognerebbe, dal mio punto di vista, nazionalizzare l'Ilva, passarla sotto il controllo dei lavoratori. Bisogna che i lavoratori controllino l'Ilva, e anche perché i lavoratori dell'Ilva faranno il bene dell'acciaio in Italia, ma anche dell'ambiente a Taranto, perché sta a cuore la vita delle persone di Taranto, i lavoratori dell'Ilva, dobbiamo dirlo, basta ascoltare quello che ha detto Francesco. Ecco perché l'unica soluzione è questa: nazionalizzare sotto il controllo operaio l'Ilva e andare avanti. Serve l'acciaio e serve una Taranto pulita. Ecco. A presto, prossima puntata. All'interesse di evitare che lavoratori e lavoratrici possano rinunciare.